cosa siamo diventati e non riusciamo proprio mai ad essere felici. A volte siamo proprio noi che non vogliamo più sapere che cosa serve per vivere bene ed essere felici.